Letture di Radio 24. Un preside decide a inizio anno di parlar chiaro ai lamentosi genitori dei suoi alunni e appende un cartello all'ingresso dell'istituto. Il contenuto dell'avviso suona più o meno così. Se pensate di poter venire in questa scuola a dettar legge prendendo sempre e comunque le parti dei vostri figli, anche se sono lavativi o pigri, avete sbagliato di grosso. I professori siamo noi e in questa scuola insegniamo rigore e impegno. È un preside o un eroe? Se non l'Italia, almeno la scuola, che poltriva da tempo, si è desta. A Sturla, un quartiere di Genova, in vista dell'imminente apertura dell'anno scolastico, il preside del liceo Martin Luther King ha esposto nell'atrio un perentorio avviso rivolto ai genitori o familiari dei 1600 alunni, invitandoli in pratica a non pietire, non supplicare, non raccomandare, non scocciare al fine di ottenere per figli, nipoti e affini condizioni di favore. Il nome dell'eroe dei nostri tempi è Renato Delle Piane. Fine primario del King, ha voluto scrivere sul suo proclama, è collaborare con le famiglie per la crescita umana e culturale dei ragazzi. Pertanto, si invitano i genitori che desiderano che i figli siano promossi e non hanno fiducia della professionalità dei docenti e del dirigente a rivolgersi ad altre istituzioni scolastiche che ritengono più rispondenti ai loro desideri. Si ribadisce, infine, che non è possibile effettuare la scelta della sezione sulla base dell'ipotetico organico dei docenti. La prima delle richieste è stata così illustrata dall'eroe di Sturla. In questi giorni stiamo informando le famiglie sui risultati degli esami di settembre. Ci è capitato più volte di assistere a reazioni nervose e a proteste. Ma se un medico dice al paziente che ha una grave malattia, che fa il paziente? Lo prende a pugni? Dica il lettore se il professor Delle Piane non merita un monumento. Oltre a ridare dignità all'istituto scolastico e al suo corpo docente, oltre a riconfermare il principio di autorità, con il suo editto, il professor Renato Delle Piane contribuirà anche ad arginare quel fenomeno, da ogni parte deprecato, noto col nome di bamboccismo. Per questa sua rivoluzionaria presa di posizione, temiamo che il professor Delle Piane, già entrato in collisione con la società civile per aver richiesto al provveditorato due ispezioni per certe anomalie di carattere didattico riscontrate in un insegnante, non la passerà liscia. Il quartiere si prepari dunque a cortei e girotondi di fiera e vibrata protesta per l'arroganza ovviamente di matrice fascista del preside del Martin Luther King, che non sembra però uno facile a farsi intimidire. C'è da scommettere che tirerà dritto l'eroe di Sturla. Paolo Granzotto firma l'articolo Il preside caccia da scuola i genitori in piccioni, pubblicato da Il Giornale giovedì 16 settembre. Letture di Radio 24. Nel film I due marescialli, dopo aver bevuto un pessimo caffè, Totò invitava la barista a cambiare il nome del bar e chiamarlo Ciofeca dello Sport anziché Caffè dello Sport. Eppure la cattiva qualità del caffè dipende quasi sempre da banali errori nella preparazione. Ecco il decalogo, stilato dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano, degli errori più comuni che si devono evitare se si vuole preparare un buon espresso. Il caffè non si può prendere all'alba. Bisogna dar tempo alle macchine di scaldarsi e lavorare 2-3 ore. Si manda giù dopo essersi sciacquati la bocca con un bicchiere d'acqua in 4 sorsi e solo allora l'inconfondibile crema esprime il suo retrogusto di nocciola o cacao. Insomma, non ne possiamo fare a meno che sia abitudine o rito propiziatorio, piccolo piacere centellinato o razionato sotto controllo medico. È il nostro quarto d'ora di paradiso. 1. Troppe tazzine. Se si dispongono in più di due file sopra la macchina, quelle dietro rimangono fredde. 2. Tazzine cilindriche. Questa foggia non aiuta la formazione della crema. 3. Caffè macinato nel dosatore. Invecchia molto più velocemente rispetto al caffè in grani. 4. Fondi nel portafiltro. Il nuovo caffè finirà per sapere di bruciato o di fumo. 5. Portafiltro con bordi sporchi. Non si aggancia alla macchina e il caffè sa di gomma bruciata. 6. Dose troppo scarsa. 10 grammi invece di 14 danno un caffè con meno corpo e meno aromi. 7. Miscela scadente. Si riconosce subito dalle note di paglia e di arachide. 8. Polvere poco pressata. L'acqua corre troppo velocemente nel caffè. 9. Niente fretta. Se l'acqua attraversa la polvere per meno di 25 secondi, si ha un caffè sotto estratto. 10. Eccesso di acqua. La misura corretta è di circa 25 millilitri. 35 sono eccessivi. Bocciato il caffè lungo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roselina Salemi, L'arte di rovinare un buon caffè, dalla Stampa del 13 settembre. Il governo cinese ha deciso di limitare la fabbricazione delle bacchette per mangiare. Un'indagine del Ministero del Commercio ha scoperto che per produrre i 150 milioni di bastoncini usa e getta utilizzati ogni giorno nel paese asiatico, vengono abbattuti quotidianamente 50 ettari di alberi, soprattutto betulle e bambù. In un anno fanno circa 30 milioni di piante tagliate, ma non sarà facile per il governo cinese cambiare le abitudini usa e getta dei propri concittadini. Una coppia di bacchette monouso costa un centesimo, mentre l'uso di quelle riciclabili costerebbe, calcolando l'inevitabile necessità di sterilizzazione dopo ogni pasto, tra i 30 e i 70 centesimi alla volta. La colpa non è dei circa 20 miliardi di clienti che ogni anno frequentano all'estero un locale di cucina orientale. Il problema, questa volta, sono i cinesi che, grazie alla crescita economica, affollano ormai centinaia di migliaia di ristoranti. Un'indagine del Ministero del Commercio di Pechino ha stabilito che in Cina nel 2010 sarà superata la quota record di 50 miliardi di coppie di bastoncini usa e getta, più di 150 milioni al giorno. Può apparire un calcolo futile per la nazione che ha conquistato il primato mondiale nell'emissione di sostanze inquinanti. In realtà è un volume di legno impressionante, tale da avere spinto il governo per la prima volta nella storia a imporre lo stop alla produzione di nuovi bastoncini monouso. D'ora in poi la fabbricazione, il commercio e il riciclaggio delle posate orientali sarà limitato dallo Stato. Le aziende non potranno produrre più di un numero prestabilito di bastoncini e le imprese che non rispetteranno la soglia saranno chiuse. Non che le autorità, pur soggette all'attrazione dei costumi europei, incentivino un più ecologico ricorso a forchetta, cucchiaio e coltello in metallo. Gli alimenti cinesi, storicamente tagliati in piccoli pezzi prima della cottura per diminuire il consumo di fuoco nelle zone semidesertiche dell'Asia, non si prestano alla posateria diffusa nell'Ovest. Il Partito Comunista punta piuttosto ad assumere in patria e all'estero un'immagine verde, anche a costo di partire dal dito inserito nella falla invisibile di una diga che crolla. Il divieto del bastoncino giunge infatti al termine di un'estate nera per l'annunciata svolta ecologica cinese. Mai le industrie ripartite a pieno regime hanno avvelenato tanto l'aria e l'acqua del paese. Una chiazza enorme di petrolio al largo del porto di Dalian continua a soffocare ciò che resta del Mar Giallo. 3.000 barili di sostanze tossiche navigano nel fiume Xiongwa, nel nord-est, e un milione di nuove auto al mese paralizzano ormai le strade di metropoli che si apprestano a contare 40 milioni di abitanti. Potrebbe così apparire eccentrico, seduti su una bomba ambientale e mentre i cambiamenti climatici hanno sconvolto il continente, prendersela con la gente che impugna le bacchette a basso costo fornite da mense e banchette di cibo da strada. La precisione della burocrazia cinese ha scoperto invece che per fornire al popolo i bastoncini da pasto vengono abbattuti ogni giorno 50 ettari di alberi, in prevalenza betulle, pioppi e bambù, pari ad una foresta ampia quanto 150 campi da calcio. In un anno la Cina, per portare il cibo alla bocca senza tradire la consuetudine, taglia più di 30 milioni di piante, poco meno della superficie forestata della Francia, in un decennio spogliata, mentre la desertificazione sta consumando il territorio nazionale, innescando esodi epocali. Anche una coppia di bastoncini a tavola inizia così a fare la differenza e Pechino, sfidando l'impopolarità, è decisa a convincere 1.400.000.000 di cinesi a lavare i propri utensili fino a fine pasto. La rivoluzione, per la prima volta, potrebbe non riuscire. 300 fabbriche di bastoncini occupano oltre 100.000 operai, in particolare nelle zone povere dell'interno. Il mercato del bastoncino usa e getta è in pieno boom e alcuni gruppi, sostenuti dalle banche di Stato, sono quotati in borsa. L'alternativa sintetica, in resina melaminica, secondo il Ministero della Sanità, presenta alti contenuti di formaldeide, mentre altri materiali, tra cui alcuni commestibili, alterano il sapore delle pietanze. Non resterebbero che le più costose stoviglie perenni, metalliche, in osso o in legno trattato, lavabili come quelle diffuse nelle case. Non in tutta la Cina l'acqua è però sempre disponibile e mentre una coppia di bastoncini monouso costa un centesimo, sterilizzare quelle riciclabili oscilla tra i 30 e i 70. Aziende e ristoranti non vogliono assumere questo onere e tantomeno i clienti che diffidano anche della pulizia dei locali. Sui bastoncini il governo potrebbe dunque perdere la sua prima battaglia, pur simbolica, per una crescita meno distruttiva. A meno che i cinesi non si convincano davvero che mangiando finiscono di consumare anche l'aria che respirano. Avete ascoltato l'articolo La svolta della Cina, stop alle bacchette, di Giampaolo Visetti, pubblicato sulla Repubblica del 9 settembre.